disillusa. Oh, e chissà, ho fatto la prova, lasciato 24 ore su 24, ma non so un'idea, nulla, sempre freddo. Ma io perché uso il barattino 27, capito? Però dovevamo passare in FM, io ne ho due, no, io sono ancora la MS200 già c'è la FM. Però la cabina 23 va sulla M, il LAN 48 che ho modificato, dove c'era la FM, è stata fatta la modifica dei canali, e quindi non ne ha capito. E allora ho dovuto commutare nuovamente qua sulla KF, ma non c'è un problema. Non ci sono problemi, va bene lo stesso, tutto sotto controllo. Dopo pompa, una salatina, fatto un vapore. Cazzo, è una cosa allucinante. Tornando due passaggi, ma che ci piglia la latina. Servizio. Però domenica scorsa ci vedevamo, io, lui e il mamma. sogno. E poi dice ad aumentarsi di nuovo, continuare il sogno, e lo continuava. No, ma tu mi c'hai risate. Lì si raccontava per lei, davanti per sempre fare le cazzate. E dice che tu l'ha detto a Guido del berretto. Lui mi ha fatto la dire. Sì. Dopo la mano, come momento mio ce l'aveva detto. Mi ricordo. Le mani lui, berretto. Come la momento, me l'ha bruciato, sul continente avevamo alla Polania, stavamo andando alla Polania a sentire. Stavamo seguendo la Polania perché c'era una perduta. E se l'era Guido sul continente. precedente programma, ma guida anche lui, sì. Lui gliel'abbiamo tolta la patente, perché faceva il cantoniere, capito? Mi ha dato che buttava lì a provare i bicchetti. Addirittura. No, vabbè. E beh, in effetti ci vuole personaggi tranquilli a guidare quelle vetture lì, specialmente quando sono di servizio, ci vuole attenzione, non penso che lui si ama tutta questa attenzione. No, sto scherzando, già ce l'ho la patente, però la macchina ce l'ho io in affidamento, quindi guida chi ha in affidamento la macchina, capito? Ce la prendo ogni tanto a fare qualche commissione, già. Il responsabile sono io, quindi lui sta a fianco a me. Cioè, non aggiorna che io guida, no, la guida tu, e non mi dirai mai, oh, non aggiorna che guida, e lo guida, lui. Però sto sempre la tensione abbassata, ce lo vengo a tutti, di Baresi. Cioè 30 anni con la zona dove siamo noi, ci siamo entrati assieme nel 96 e siamo rimasti assieme sino al 2004, poi io sono andato fuori, sono rientrato nel 2006 quasi, fine 2005, inizio 2006 e sono attaccato il Salvo, lui era a Romagna, quindi insomma eravamo sempre in contatto, però siamo un sacco di anni tutti assieme, ma hanno combinato il tricolore. Ma lì ha dato la macchina a uno della cosa, della forestale a Gancedo, a Nurdi. Adesso ti immagini, dice uno di 50 anni, vabbè, c'è 50 anni. Se uno di 50 anni ha di lì a una gorda al gancio di traino di un Land Rover a un Gancedo tutto pratico. Quindi non si è avvisato e fa tutto e si sta portando un Gancedo. È mancante. Ti giuro, mi dice quando lo vedi, l'ho messo nuovo cancellatore, ma qualche anno fa. Allora manco l'ha detto, me lo diavolo è obbligato. A lui dice, quando ha tirato, come buttava il pilastro, o si rompeva la corda. No, lo cancello, si sta portando lo cancello, si è fermato, ma stesso stesso. E cosa ne so, mi dico, dove c'è questa corda? E l'ha agganciata lì e mi ha attaccato il cancello. Siamo rimasti 2 anni senza cancello. E fa di tutti i colori, è una cosa allucinante. Sei in vera, amici, sei in vera. Se non è in vera, e tu lo vedi a Cavuva, se non è cosa c'è. Quella strocca è la voce. Gli ho chiesto 10 euro come la date, adesso mi rimarrebbe, perché mette il tocco di trombati pure a venire. Ma non è proprio così, no, non è un problema. È vissuto, quando era ragazzo se l'ha fatta. Da si vede che è vissuto, capito? Ma sai chi è? Forse la madre la sera dove abita. Ha visto che c'è la farmacia di via Colombo, alla Terroce. Sì. Lì abita la madre, lui è nato lì. Sono lui, Roberto, Gigi, poi c'ha due o tre sorelle, sono quelli migliori. Macello si chiama il cognome. Ci ha pagato, passate di Macello, io. Ho capito. E lui è più. Non mi tocco di qua. Dice lui e Gigi sono più tu, l'altro Roberto è un pezzo da 90, poi è sempre in mezzo ai casini, gli hanno dato lo sfratto, mi ha detto vabbè a poco, ma ormai è di prima di dire no, a casini anni si chiama un gli hanno dato lo sfratto perché andava a prendere l'affitto che è anche questa integrazione, e ha pigliato la moglie del migliore, ha avuto una casa disabitata e si è sentato 30, di me l'ha detta, se non l'ha arrestato un fatto furioso, Roberto, fatto furioso. Non capire già, Vabbè. Allora, domani mi ha detto, dammi le chiavi, ti accompagni a casa. No, no, non ne hai più di titolo per avere la macchina, l'ho presa. Mi chiedo a piedi, alle 7 giù, se non ti lascio a piedi. Vabbè, però le 6 e mezza devo portare il cane, forse ne hai compreso, butta il cane, alle 7 e mezza ci sono da te. Che alle 7 e mezza dobbiamo essere a Uso, ci abbiamo la l'altro. Va bene, va bene. E andiamo da Gianmaria a berci una birra, vai non ammala. Signore del Davvero. Sempre dalla buttato bene. È più basso, signore. Questo qual è? Il Mubico? Questo è il Mubico. È più basso, signore. Ha ragione. Adesso guardando bene con gli occhiali, è più basso, non di poco. E non di poco. Ma sei gomito che dà di rilevare se vedi? 8 Allora, col Mubico sì, 9,40 e con l'87 sì, cioè 9,45, mentre con l'87 sì, 9,50. Col Mubico sono 9,45 adesso col Kenwood, mentre invece vabbè, con i barattini cambia. Col Kenwood sì, 9,45 col Mubico e con l'ala 87 9,50. Che sono è tanto meno. A me non mi pare di via 8 fatti di suo Mubico. Ho l'idea di meno? Eh sì, già lo proviamo noi. Eh sì, la linea è molto precisa nelle misurazioni, sta lì tutto sotto, però io non ho questa differenza qua. O se tu che come ti mangi l'antenna, cosa mi dico qui? No, è bella l'antenna, io ho mangiato mani tutto, il tasto, il tastino, beh, era come buttata. Ecco, come? Ecco buttata, oh. Non ci arrivi a 50, ma è possibile che ti porta via così tanto segnale. Allora abbiamo il dosa, come detto, ma l'87 ne va più di 10, ne darà modulati 12-13, perché ci sono quasi 3 punti S di differenza, sono tanti. Va bene, non ci sono problemi, comunque arriva bene lo stesso. È importante arrivarci, la gente va a trovare il denaro perché bisogna fare quella. Ti racconto l'ultima di Bauri. Perché c'è una luce? Vai. C'era domenica mattina la sagra di Vitellone, si è sentita la televisione, ha fatto anche la pubblicità. Sì, l'ho sentita. Siamo passati io e Gabriele, era praticamente già in piazza del comune, appeso questo vitellone grande, intero, è aperto in due, è agganciato con dei cavi d'acciaio e il fuoco, dei cavi d'acciaio perché lo facevano girare, no? Con un motore grande, uno spiedo grande, e il fuoco tutto intorno, infatti cosa ci abbiamo messo? Un'oretta neanche a Buzzi, ho fatto l'aereo e Marte, ci sono tornato indietro, siamo 20 km e direi a quasi andata. Arrivi Dueldo, ha invitato, è arrivato lui, come è entrato in paese, ma 20 metri, 30 metri dal vitellone si è staccato per fare tutto il buco. Oh, cazzo, una sfiga forte. A balla, detto da allucinante, mi ha detto Claudio, allucinante. Ma non era neanche arrivato lì, era ancora dentro la macchina, 20 metri, della manetta, 20 metri. E noi siamo passati la mattina, c'erano tutti i pastori che stavano organizzando, tutti mettendo le panche perché bloccano, c'è una strada di fronte al comune, una bella piazza, loro, una bellissima giornata venuta la mattina. Si è fortunatamente sono tutti bollati in fretta, ragazzi, non ho preso sia la vita che bruciate di mani, è una dritta per riagganciare con i ganci e poi tirato su quel vericello perché è pesantissimo. Se no, addio festa. Porca miseria, ragazzi, ma deve essere tipo sfigato questo qua, Siamo orientatori, ragazzi. Che miseria, ragazzi. Allucinante. Una cosa impressionante, tu immaginate che a me mi hanno dato quaglie un periodo dopo la torre, ho fatto cambio con un ragazzo di Usci, perché era più distante, però lo fare il cambio, un referente. Ma tu che impianto c'hai? Qua, c'ho Chiaramonte in quaglie da adesso, ma fai cambio, sei più vicino a Usci, non dovrei avere quaglie, e si apposta, sì, abbiamo fatto il cambio, la prima volta che io mi guardo. Ha ha ha. passati a gennaio 2011, sì. Ho fatto il passaggio ero sempre il 31 dicembre, quando ho chiuso praticamente con il 14 mi avevo chiamato l'autorità e si è venuto con me tre cose. Lì mi avevo fatto novembre, dicembre ho fatto ferie e poi gennaio ho fatto servizio con Lancio. Capito, me la metto sempre. Ce l'ho trovato a Pianamonti. E che fa in Sardo, io parlo molto bene in Sardo, non sono abbastanza colpa. E lei mi sa, va, adesso gli ha fatto bene, noi siamo multinazionale, vai, a incassare di nare a carretta già. E tu mica non la gioco a niente, devi inviare 24 milioni di euro. Omicidiale l'uomo. Ma sai che va una carogna, una iella è nata, diciamo che Dio me ne scappi e poi liberi. A me, personaggio grande, conosciutissimo, fatto un grande parlamentare. Però, mamma mia, se ti tocca la mano, come sto? Ci verrà dato un chiodo, abbiamo fatto un momento di subito. quello di Weber. Dove? Dito per dire qualcosa a me. Io non lo faccio qua lei, questa persona mi viene Ruzudu, mi rido ma mi viene Ruzudu. Mi viene Ruzudu, una cosa allucinante, allucinante. Però purtroppo è molto in gamba, manda avanti cose spettacolari, cose che... cose veramente grandi. Ciao per il momento.